Radio 24 Reportage. L'Ermitage compie 250 anni. Un pezzo di arte italiana a San Pietroburgo. Di Alessandra Tedesco. Se ci fermassimo solo 30 secondi davanti a ogni opera, ci metteremmo 5 anni per scoprire tutti i tesori dell'Ermitage, uno dei musei più importanti al mondo. 3 milioni le opere, la maggior parte delle quali però conservate nei depositi perché non c'è abbastanza spazio per esporle. Il 2014 è un anno importante per il Museo di San Pietroburgo, che compie 250 anni. 12 mesi di celebrazioni e festeggiamenti che avranno anche un po' il sapore italiano, visto che i 3 vin d'honneur che verranno serviti ai banchetti dell'Ermitage sono tutti e 3 made in Italy. Del resto, come racconteremo fra poco, la presenza dell'Italia, delle opere italiane nel Museo Russo, è determinante. Fu Caterina la Grande a far costruire nel 1764 un rifugio, le Petite Ermitage appunto, dove ritirarsi per contemplare opere d'arte e sfuggire al trambusto della corte. La zarina, appassionata di arte pittorica dell'Europa occidentale, acquistò più di 2000 dipinti. Altri sovrani arricchirono la collezione con donazioni e acquisti. Ed è questa una delle caratteristiche dell'Ermitage. La maggior parte delle opere è stata acquistata da collezionisti in paesi come la Francia, la Gran Bretagna e l'Italia, mentre altri musei europei sono entrati a volte in possesso di alcune opere importanti in modo poco trasparente durante i periodi di guerra. È il direttore dell'Ermitage, Mikhail Pietrovsky, a introdurci in questo viaggio virtuale in uno dei musei più belli del mondo. E lo fa spiegandoci quali sono i punti di forza. Io думаю, due вещи. Во-первых, Эрмитаж это замечательное хранилище сокровищ, он очень большой, это музей мировой культуры, а не просто живописи, и таких в мире, в общем, немного. Due cose. La prima è semplicemente la grandezza, perché l'Ermitage è un tesoro, un vero tesoro di opere d'arte, dove si trova una grande quantità di opere d'arte e sono pochi musei di questo valore nel mondo. Во-вторых, Эрмитаж воплощает в себе такую открытость русской культуры и по существу является явлением русской культуры, которое очень важно. Это русская культура, которая не замыкается в себе, а для которой все это, включая итальянское искусство, своя часть своей культуры. E poi l'Ermitage possiamo dire che è una personificazione dell'apertura della cultura russa ed è una cosa molto importante perché l'Ermitage simboleggia una cultura che non chiude su se stessa ma invece appunto fa vedere l'apertura della Russia al mondo, così per esempio abbiamo delle bellissime collezioni italiane. Il terzo Ermitage сочетает в себе музей и памятник русской государственности, потому что русская имперская история вся проходила здесь в этих зданиях. И целую энциклопедию архитектуры, потому что здания все замечательные и многие построены итальянцами, здания Эрмитажа, и самые лучшие виды из окна. Terza cosa, l'Ermitage non è solo un museo, ma anche un punto amministrativo, cioè il palazzo del potere reale russo, come si sa, e poi ci sono dei bellissimi musei, dei bellissimi palazzi dal punto di vista architettonico, e poi potete vedere, godere dei bellissimi paesaggi dalle finestre di questo palazzo. Il quarto Эрмитаж сейчас это глобальный музей, который очень активно действует во всем мире, у него есть центры во всем мире, множество выставок, интернет и все, в общем, поэтому он хорошо известен и не только тем, что у нас есть, но и что мы каждый день делаем. L'ultima cosa, l'Ermitage è un museo, possiamo dire, universale, globale, perché ci sono moltissimi centri dell'Ermitage in tutto il mondo, le esposizioni, le filiali, quindi anche su internet, quindi l'Ermitage è molto noto nel mondo, e non solo come museo, ma anche come attività, quello che svolgiamo. All'Ermitage all'Ermitage sono esposti dipinti degli artisti più importanti degli ultimi 400 anni, dall'Italia a Caravaggio, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, Tiziano, la scuola francese con Cézanne, Matisse, Monet, Renoir, gli spagnoli Picasso e Velázquez e la scuola fiamminga con Rembrandt, Rubens e Van Gogh. Ci sono momenti, mentre si passa da una stanza all'altra del museo, che si può essere colpiti da sindrome di Stendhal. Come quando si entra nella stanza dei Rubens, si viene travolti dalla luce di una ventina di grandi tele fra le più note del pittore fiammingo. Si rischiano le vertigini anche quando si entra nel corridoio dedicato a Canova, la più importante collezione al mondo di statue dello scultore italiano, da Cupido e Psiche alla Maddalena Penitente. Corpi perfettamente scolpiti nel marmo, che non hanno nulla di freddo, anzi. Ma l'Italia, come dicevamo, non è presente solo con Canova, come racconta Irina Artemieva, responsabile della collezione italiana dell'Ermitage. Abbiamo le collezioni molto vaste, sia dell'arte antica, greca, romana, diciamo, romana in particolare. Poi naturalmente abbiamo la pittura, la scultura, l'arte decorativa, di varie epoche. Così la collezione è infatti molto molto vasta, molto cospicua e molto importante. Per ciò che riguarda la pittura italiana, noi abbiamo quasi 1000 dipinti italiani di tutte le epoche, tutte le scuole naturalmente. Noi abbiamo 2 capolavori di Leonardo da Vinci, noi abbiamo Raffaello, noi abbiamo tutti i nomi più importanti del Rinascimento italiano che rappresentano varie scuole, la scuola innanzitutto la scuola senese come Simone Martini, abbiamo la scuola ben rappresentata, la scuola toscana che è rappresentata qui da Fra Bartolomeo, da Lorenzo Costo, da Sandro Botticelli, da Filippino Lippi e così via. Poi tutta la scuola lombarda, dei pittori che seguivano la tradizione di Leonardo da Vinci, grande raccolta dei leonardeschi. All'Ermitage c'è l'unico Caravaggio presente in Russia, ma è uno dei capolavori, il ragazzo che suona il liuto. Di Michelangelo, la preziosa statua del ragazzo accosciato. C'è la migliore collezione del 600 e 700 italiano, da Tiepolo a Canaletto. È grazie a un canaletto custodito all'Ermitage che gli architetti sono riusciti a capire che tipo di pavimentazione c'era in Piazza San Marco all'epoca. Un'intera sezione dell'Ermitage è dunque dedicata ai pittori veneti e il perché ce lo spiega sempre Irina Artemieva. La tradizione sempre dava priorità alla pittura rinascimentale. Per i vari motivi storici la pittura veneta aveva una parte preponderante nel collezionismo in Russia, che è cominciato ai tempi di Pietro il Grande e naturalmente continuava con i suoi successori. Allora la pittura rinascimentale aveva la priorità nel collezionismo sia europeo e naturalmente nel collezionismo russo. La pittura veneta rinascimentale è sempre stata tenuta a parte per la sua particolarità, per i suoi modi espressivi e anche perché formava una parte maggiore anche nella collezione italiana. Perciò, per esempio, all'inizio dell'Ottocento, il famoso architetto italiano, all'epoca l'architetto della corte russa, Giacomo Quarenghi, lui scriveva in Italia dicendo che della pittura veneziana siamo veramente ricchi. Devo dire che la pittura veneta in tutti i musei, grandi musei del mondo, sempre è stata tenuta a parte proprio per la sua particolarità. Pittura veneta con i già citati Tiepolo e Canaletto, ma anche con Giorgione, Tiziano, Paolo Veronese e Tintoretto. A testimonianza che a San Pietroburgo l'arte italiana è particolarmente amata. Proprio perché questa corrente, questa affluenza italiana era molto notevole, cominciando dal momento della fondazione di Pietroburgo. E poi non solo la presenza degli architetti e dei pittori italiani, ma anche la presenza dei musicisti e dei compositori italiani, grandi scenografi italiani che hanno vissuto a lungo a Pietroburgo. Qui a Pietroburgo ha partecipato per esempio anche Zanetta Casanova, la madre di Giacomo Casanova, poi lo stesso Giacomo Casanova venuto in Russia, è venuto in Russia, qui ha vissuto più di un anno, ha lasciato bellissime memorie di questa sua esperienza. E poi l'opera italiana sempre fioriva a Pietroburgo, c'era sempre presenza dei grandi virtuosi, grandi cantanti. Giuseppe Verdi, che ha scritto un'opera appositamente per il teatro che adesso lo conosciamo come Teatro Mariinsky, quella La forza del destino, è l'opera scritta da Verdi appositamente per Pietroburgo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.